Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Come ogni giorno alle ore 19 è l'inizio di Eclettica, minuto più, minuto meno, in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare anche nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera. È la nostra settimana che vede sia letture da un solo libro, un libro di Woody Allen, che vede sprazzi cinematografici da un film in lingua originale e vede tanta musica, brani nuovi, brani vecchi, brani che conoscete, brani che non conoscete. Con tutti questi elementi, l'obiettivo di Eclettica è quello di riuscire a creare un'atmosfera. Di tutte le meraviglie della natura, un albero d'estate è la più notevole, eccezione fatta forse per un alce con le ghette che canta Embraceable You. Considerate il fogliame così verde e coperto di foglie, se no ci sarebbe qualcosa di sbagliato. Mirate come i rami si tendono verso l'alto, come a dire: anche se sono solo un ramo, mi piacerebbe lo stesso percepire il sussidio di disoccupazione. E quante varietà! Quest'albero è un abete rosso o un pioppo? Oppure una sequoia gigante? No, mi dispiace, ma è il nobile olmo e voi avete fatto una figura di merda. Naturalmente voi avreste riconosciuto tutti gli alberi in un lampo se foste una creatura della natura come un picchio, ma allora sarebbe troppo tardi e non potreste mai più avviare il motore. Ma perché un albero è tanto più incantevole di un, diciamo, ruscello mormorante? Perché la sua presenza gloriosa è la muta testimonianza di un'intelligenza più grande di qualsiasi altra che esista sulla Terra, e in ogni caso maggiore di quella del governo. Come disse il poeta, solo Dio può creare un albero. Forse anche perché è il difficile far star la corteccia attaccata. Tempo fa un boscaiolo stava per abbattere un albero quando notò che c'era inciso sopra un cuore con due iniziali. Depose l'ascia e usò invece la sega per sbatterlo giù. Mi sfugge la morale di questa storia, ma 6 mesi più tardi il boscaiolo fu multato per aver insegnato i numeri romani ad un nano. Questo era l'incipit dei primi saggi da citarsi addosso di Woody Allen. Sends little signs to your face. Now tell me where I am, even when you sleep. Giving you away every time, everything. When you travel round, we'll separate. Okay, when you come around, I'll take this mess and make my exit. When you come around again. This is where I'll be, killing time, rearing faith. Circles that deceive and make you feel that you're safe. Safe and sound asleep, giving you away. This is where I'll be, should you need any. Spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Thank you. In origine era stato un concerto al Festival di House Music a Monaco nell'ottobre del 2006. Quel concerto aveva entusiasmato sia il pubblico che i componenti del gruppo The Identical Trio. Per questa ragione hanno deciso di realizzare un album che è stato realizzato in soli tre giorni per registrazione, arrangiamenti, mixaggio, insomma, per tutto. E questo album è quello che è stato pubblicato nelle scorse settimane da More Music a Elita, il nuovo di The Identical Trio, il quintetto di Monaco di Baviera, dal quale ci siamo ascoltati questo dub lento e ben condotto dal titolo Tamagis. Invece l'inizio di Eclettica di quest'oggi era stato scozzese, vi rimando alla playlist per scoprire il nome del gruppo, bisogna lasciare un po' di mistero, almeno a me è così che piace. Per proseguire invece con il trio di Brighton, che fa finta di essere giapponese. Ma dai, lascio anche qua il mistero, anche se questi dovreste conoscerli già molto bene. L'età di una persona non si misura dall'età, ma dal modo in cui reagisce, svegliandosi in pieno centro in mutande. Che importanza hanno gli anni, specialmente se avete l'affitto bloccato? La cosa da ricordare è che ogni periodo della vita ha la sua felicità, mentre quando siete morti è difficile trovare l'interruttore della luce. Il problema fondamentale della morte, per inciso, è la paura che non ci sia un'altra esistenza dopo, un pensiero deprimente, specie per quelli che prima si erano fatti la barba. C'è anche la paura che ci sia una vita dopo, ma che nessuno riesca a capire dove. Di converso, morire è una delle poche cose che si possono fare facilmente stando sdraiati. Considerate allora, è veramente così terribile la vecchiaia? No, se vi siete lavati i denti regolarmente. E perché non c'è un rimedio contro l'assalto degli anni? Oppure un buon albergo nel centro di Indianapolis? Beh, come non detto. In breve, la cosa migliore è di comportarsi in modo consono alla propria età. Se siete sedicenni, evitate di diventare calvi. Ricordatevi, tutto è relativo, o dovrebbe esserlo, e se non lo è, dovremo ricominciare da capo. Questo era ancora I primi saggi da citarsi addosso di Woody Allen. Oh, lied to us, Trinity. He tricked us. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass. Siamo alla fine della prima parte di Eclettica, o perlomeno quasi. Infatti ci sarà fra poco il blocco pubblicitario e dopo di quello l'inizio della seconda parte. Il quasi è legato al fatto che manca un brano, un estratto dall'ultimo di Shannon Wright, ovvero sia St. Pete, però prima voglio ricordarvi quanto vi siete ascoltati negli ultimi minuti, ovvero sia Simple Kid, ragazzo dell'Irlanda, con Lil King Kong e prima ancora un artista completamente nuovo per quanto riguarda Eclettica, di cui avremo modo di parlare nelle prossime settimane. Fra l'altro dovremmo anche scoprire se il suo è un vero nome o un nome d'arte. Se fosse vero è quasi uno scherzo del destino. Comunque, Patrick Clear Denim, e questo è il nome dell'artista che vi siete ascoltati qualche minuto fa. Ma vi dicevo di Shannon Wright. Dragon. she is.